Storiacce di Raffaella Calandra. File e file di uliveti. Brilla sotto al sole caldo della Sicilia la distesa di piante da cui arriva un olio DOP. Ma pure le piante da queste parti sono sotto il controllo della mafia e dell'ultimo padrino in libertà, Matteo Messina Denaro, Usiccu, la primula rossa di Cosa Nostra. Pure su queste piante del Trapanese, infatti, aveva investito il superboss di Castelvetrano, sempre pronto a differenziare gli affari, molto più ad esempio di Bernardo Provenzano. E allora da qui, dall'ombra degli uliveti e del sole della Sicilia, parte questa puntata di Storiacce sulla caccia agli invisibili. In parte sono diverse, in parte sono uguali. Sono diverse perché i contesti territoriali sono diversi e perché le due figure, per quanto entrambe carismatiche con un ruolo di vertice all'interno di Cosa Nostra, sono assolutamente diverse, non solo per età ma anche per impostazione culturale. Per esempio per Provenzano abbiamo svolto tutta una serie di ricerche all'interno di masserie dove appunto era possibile che si nascondesse e poi in effetti l'abbiamo catturato in una masseria. Per Messina Denaro sono state valutate molte ipotesi, come per esempio anche la possibilità che il latitante, seppure per brevi periodi o per certi periodi, potesse trovarsi all'estero. Ha festeggiato la cattura di Zio Binu, ha inseguito anche lei Ucurtu. Marzia Sabella, ora consulente della Commissione parlamentare antimafia, è una di quei magistrati che non vedete in TV. Allergica all'epica del coraggio e dell'eroismo come delle minacce transitive per posizione, come dice lei stessa. Eppure, lei alle catture dei super latitanti di Cosa Nostra ha partecipato in prima persona dall'interno di quel palazzo di giustizia di Palermo che resta sempre, in ogni caso, il palazzo dei veleni, come in passato lo è stato pure dei corvi e delle talpe. Lo hanno confermato da ultimo pure le feroci polemiche dopo mesi di trattative per la nomina del nuovo procuratore capo, Francesco Lovoi. Infinite volte inquadrato con i suoi marmi di epoca fascista e i suoi richiami al sangue delle stragi, questo palazzaccio da quanti però è davvero conosciuto nelle sue dinamiche più profonde, nelle sue tensioni, nelle tragedie, ma pure in quegli insospettabili momenti di normalità, quando non di galanteria? Ed è allora lì, dentro i corridoi di un luogo diventato un totem della giustizia italiana, che ci conduce ora questo magistrato gentile, lì, nel dietro le quinte delle catture dei boss mancanti, come Matteo Messina Denaro, come racconta in Nostro Onore, libro scritto insieme alla collega Serena Uccello, che è anche un confronto nella caccia a due invisibili. È più difficile il personaggio perché ha un modo di fare completamente diverso. Nel caso di Provenzano ci fissavamo per esempio sulla cicoria, sul miele, su oggetti di questo genere. Su Messina Denaro si è anche pensato di guardare l'aspetto informatico oppure i videogiochi, perché insomma si diceva o si pensava che potesse essere interessato a questo tipo di attività o di comunicazione. Ma poi lui è diverso, cioè Matteo Messina Denaro è diverso perché ha un modo diverso di rapportarsi con il suo entourage. Mentre Provenzano seguiva passo passo ogni consegna di denaro, ogni piccola estorsione, sia dalle piccole alle grandi estorsioni, cioè lui interveniva. Messina Denaro è uno che delega molto, ha delegato molto alla sua stessa cerchia familiare, perché la sorella abbiamo visto anche il fratello, che è stato il cognato Guttadauro Filippo, che è stato capomandamento dopo di lui, Messina Denaro Salvatore, che è stato in successione un altro capomandamento, alla fine anche la sorella, che non aveva un ruolo di vertice ma comunque aveva un grande ruolo di collegamento. Quindi essendo accerchiato da una capace filiera familiare, non ha bisogno di presenziare, seppure per mezzo dei noti pizzini, a ogni vicenda di Cosa Nostra. Del resto lui è anche uno molto amato dai suoi, a differenza di Provenzano. Ha una politica diversa nella gestione di Cosa Nostra, che è quella della, diciamo, condivisione, del mutuo soccorso, e quindi se c'è una somma di denaro lui non esita, ma ci risulta alle intercettazioni, a contribuire alle difficoltà familiari e economiche di qualcuno delle persone a lui vicine. Invece con Provenzano era completamente l'atteggiamento di colui che doveva soltanto ricevere ma mai dare. Molto più difficile la cattura di Matteo Messina Denaro, perché è difficile trovare una persona che lo tradirebbe. Di Matteo Messina Denaro è nota anche l'ampia rete di investimenti in ogni genere, dall'eolico all'edilizia, ora ultimo anche gli investimenti sull'olio. Sì, questo è vero, però non è anche vero che lo stesso è accaduto per Provenzano. Provenzano, diciamo, con i suoi limiti culturali, eppure abbiamo intercettato dei pizzini con allegata fogli di giornale con l'andamento della borsa, perché ci sono state diverse persone, e queste sì che le abbiamo individuate, che hanno gestito i grossi patrimoni che Provenzano aveva nel tempo accumulato, perché da quei primi investimenti fatti negli anni 70 poi questo denaro man mano si è ripulito ed è stato investito in attività di grande rilievo. Quindi, insomma, sulla capacità economica dei due, insomma, non credo che ci sia poi una grandissima differenza. Una grande differenza, forse una modalità diversa di operare nei confronti degli affari. Esatto, anche in questo esatto. Forse Messina Denaro sembra più moderno. Esatto, sì. Una modernità che l'ultimo padrino rivendica anche nel suo stile di vita. Scordiamoci i boss rintanati nei bunker come topi, scordiamoci la fattoria di Montagna dei Cavalli di Provenzano. Messina Denaro ama godersela la vita, è boss da città lui e da lussi. Un profilo confermato anche da un altro magistrato, un'altra donna che lo ha inseguito, Teresa Principato. Sono servite naturalmente a restringere sempre più il cerchio intorno al latitante e hanno avuto il preciso scopo di fare terra bruciata intorno a lui, togliendogli la linfa vitale costituita dai suoi referenti e togliendogli soprattutto il denaro costituito dalle sue numerosissime imprese. Basta dire che solo per Agrigoli, Todare dei vari Despar, insieme certo. A Matteo Messina Denaro sono stati confiscati 780 milioni. Che questo è anche un sì. aspetto importante di Matteo Messina Denaro, di questo ultimo sì. superboss, che è quello della sua amplissima rete imprenditoriale che lo ha trasformato anche in uno dei mafiosi, oltre che più pericolosi, anche più ricchi. Delle imprese che costituivano la cassa comune, il mantenimento di questo latitante, che è un latitante un po' diverso, è un latitante che spende molto, che non vuole rinunciare al suo standard di vita, ad una vita molto agiata, che pur agendo nel segno di una tradizione molto molto rigida, tuttavia non rinuncia sicuramente ai vantaggi della modernità. Ecco. Che cosa vuol dire questo concretamente, dottoressa? Cioè il fatto che Matteo Messina Denaro, al contrario ad esempio dell'immagine che abbiamo tutti ultima di Bernardo Provenzano, no? Ritirato su Montagna dei Cavalli, continui a non voler rinunciare ad un certo tipo di vita, ad un certo standard di vita, vuol dire che la sua latitanza in qualche modo si arricchisce? Diciamo che cosa è possibile ricostruire? Ecco. Intanto è un latitante che non si rifugia in campagna, ma è un latitante che parte, che viaggia spesso, è un latitante che ama vestire bene, è un latitante che ha molte donne in varie parti d'Italia e anche in altri paesi, e anche le donne hanno il loro peso nei costi della latitanza. Un latitante che riesce ad inserirsi negli affari più lucrosi, differenziandoli. Trapani ha una provincia di vocazione imprenditoriale ancora più che Palermo, riesce a investire lì dove il mercato di volta in volta si propone, si concentra, ed infatti è passato dai supermercati all'eolico, dai supermercati all'edilizia, alle energie alternative, alla 488, ai subappalti, ai McDonald's. Anche queste due ultime imprese di cui erano titolari gli stretti familiari costituivano una grossa entrata grazie all'escamotage e grazie a intestazioni fittizie ad altre persone, onde evitare le misure di prevenzione, quindi sequestri e confische. continuavano ad usufruire di subappalti, di commesse milionarie. Ecco, commesse che arrivano anche fin dentro il carcere del Lucciardone. Commesse che arrivano anche sino al carcere del Lucciardone, dove vengono concessi degli appalti da parte di un ingegnere, anzi di due ingegneri, di appalti per opere che vengono realizzate al Lucciardone. E questo dietro, è abbastanza inquietante, devo dire. Sì, è abbastanza inquietante, dietro compenso naturalmente dato agli ingegneri. Si perdono nelle campagne del Trapanese le tracce dell'ultimo invisibile, ma si riformano a mettere insieme uno dietro l'altro i tasselli dei suoi investimenti. Qualche indicazione data qua, qualche rettifica là, qualche intercettazione che sembra riferire indicazioni di Iddu, dell'innominabile. Così si compone l'identikit dell'ultimo imprendibile di Cosa Nostra, il cui volto è rimasto fermo a quando, ancora abbastanza giovane, indossava Ray-Ban a goccia. Non si vede, non si trova, non si nomina, ma tutto parla di lui nel suo feudo del Trapanese e nella sua Castelvetrano soprattutto, laddove in tanti lo hanno conosciuto, laddove c'è chi, come Tonino Baccarino, suo amico di vecchia data e poi sindaco del paese, oltre che informatore dei servizi segreti, ha con lui pure avuto un fitto scambio epistolare. Lui è Svetonio, Matteo Messina Denaro invece era Alessio. Un modo questo da parte sua di vedere in me una persona sulla quale poter confidare, una sorta di confessore e non di confidente, perché con me ha intrattenuto davvero rapporti epistolari basati soltanto su discussioni filosofiche e religiose, il bisogno della fede che lui dice di non avere, che in me io ritengo che proprio per lo stesso fatto che lui dica di non avere manifesti il bisogno di averla, la consegna di missive cosiddette pirtini. Queste sono questioni consegnate alla magistratura e nessuna manovra di copertura. Il SISD fa il suo lavoro, il lavoro di intelligence che è giusto che faccia per prevenire danni alla società e per evitare che vengano commessi delitti. So che faceva riferimento a questi pseudonimi, ma non so se in altri casi ha fatto riferimento ad altri nominativi. Ritenendo di gestire chissà quale potere, finisce con l'essere nel fango e a non respirare nemmeno, perché è privo di qualunque cosa, perché il bisogno che almeno ha scritto di poter vivere una vita che fosse quanto più vicina alla norma, anche con una creatura che ha messo al mondo e che ha scritto di non avere mai visto, per esempio, avendone un dolore lancinante in questo senso, non può che dare la misura di quanto sia pervaso da disperazione. Probabilmente è quello che sostenevo qualche tempo addietro, diventerebbe una vita normale la sua se solo decidesse e si ricostituisse. Potrebbe riprendere un contatto o avere per la prima volta un contatto con la figliola che non ha mai avuto. C'è un'espressione in siciliano per indicare qualcosa o qualcuno che all'improvviso svanisce. S'affumò, dicono. Si fa come fumo, cioè così, come aria. Ebbene, cercare chi si affumò, chi ha scelto di farsi invisibile e inafferrabile come l'aria, non è per nulla impresa facile. Bisogna cercare il più possibile di diventare come loro, di pensare come loro e per certi versi diventare anche diffidenti come loro, perché le talpe e i nemici possono nascondersi ovunque. E allora, come i latitanti che inseguono, anche i cacciatori di boss cambiano vocabolario e abitudini e per tutta la durata dell'inseguimento fanno anche i conti con i dialoghi da decifrare, con i mosaici da comporre, ma pure con i loro dubbi e con ore e ore solo di paziente studio, oltre che con sfilze di mitomani che bussano alle loro porte, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce sulla caccia agli invisibili, con un retroscena anche sulla cattura di Provenzano. Storiacce. È stato cercato per 40 anni e la mattina in cui Binu Provenzano, il super capo di Cosa Nostra, è stato catturato, prima di esultare, una domanda girava tra i magistrati. Ma siamo sicuri? Un dubbio estremo, un'ansia umana diffusa dentro le stanze blindate dell'antimafia di Palermo da Marzia Sabella, all'epoca PM, oggi consulente della Commissione parlamentare antimafia. Ma siamo sicuri, ha continuato a chiedersi e a chiedere quell'11 aprile mentre saliva i tornanti di Montagna dei Cavalli. Il vero lavoro è stato entrare nei singoli contesti, nei singoli personaggi e nel carattere di questi personaggi. Io fino all'ultimo momento, come racconto nel libro, non ci credevo. Voglia di essere super certa, no? Quel giorno lei continuava a chiedere a se stessa e a chiedere agli altri, ma siamo sicuri? Perché mi immagino che in un'inchiesta di questo tipo, che è un'inchiesta dove la cattura di Provenzano era stata vicina già altre volte e poi per varie ragioni, comprese quelle di talpe soffiate, era poi saltata. Quindi lei, quando ha ricevuto un SMS che le ha annunciato la cattura? Ho ricevuto la telefonata, l'SMS è poi quello che io mando a mio marito e del quale racconto poi nel libro, l'SMS con un scritto preso. Lui mi risponde: ma siete sicuri che lui mi risponde, mio marito? E da lì mi fa venire l'ansia. In realtà quell'ansia ce l'avevo perché innanzitutto non ti sembra vero che arriva la cattura di Provenzano dopo 40 anni, poi un po' per scaramanzia e poi un po' anche per tutta una serie di vicende pregresse a cui lei stessa poc'anzi faceva riferimento, ma anche perché nel corso delle indagini tante volte avevamo avuto la segnalazione che c'era Provenzano che era passato da un posto piuttosto che da un altro e quindi ovviamente andavamo a verificare e tante volte abbiamo fermato o identificato dei soggetti pensandoli Provenzano o sperando che fossero Provenzano, ma poi appunto questo non si era per più volte rivelato vero e quindi insomma c'è sempre l'ansia di sbagliare. Tra l'altro nel frattempo la notizia era subito uscita fuori e io mi dicevo: ti immagini, non è lui, vedi che razza di figura che facciamo di fronte a tutto il mondo che in questo momento no, dice che Provenzano è stato catturato. Era invece proprio lui, il potente capo di Cosa Nostra, quell'uomo anziano dal sorriso enigmatico trovato in un vecchio casolare con la sua ricotta e la cicoria, con una macchina da scrivere piena di pizzini e con il suo inseparabile Vangelo. Era proprio lui, come racconta Marzia Sabella in Nostro Onore, il libro in cui conduce dietro le inchieste sulle catture dei latitanti. Lei che, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, ha partecipato alla caccia anche di Matteo Messina Denaro e ci conduce dentro le stanze blindate di quella procura di Palermo che resta sempre il Palazzo dei Veleni, come pure le spaccature feroci per la nomina del nuovo procuratore hanno confermato. Eppure, anche tra quei gelidi marmi si agitano passioni umane e c'è una quotidianità davvero poco nota all'esterno, fatta non solo di clamorose indagini, ma pure di scecchi morti e asini vivi, come li definisce Marzia Sabella. La svolta è stata, due o tre passaggi che avvengono però nel corso di qualche anno. Per ritornare alle intercettazioni, uno di questo passaggio è quando due soggetti, tra cui uno che era in quel momento libero ed era l'alter ego di Provenzano, preoccupato perché aveva trovato delle microspie, quindi temeva di essere stato intercettato, a un certo punto, una discussione assolutamente normale, dice: tu l'hai visto, l'hai sentito Giuseppe, quindi figuriamoci quanti Giuseppe ci sono in Sicilia, e quindi con un faticosissimo lavoro di esclusione abbiamo individuato questo Giuseppe e da questo Giuseppe poi è iniziato un nuovo filone di indagini che è quello che sempre più ci ha avvicinato verso Provenzano. Altra conversazione importante è stata quella tra il nipote di Provenzano, Carmelo Gariffo, e i fratelli di Provenzano, dove nel corso di un'altra discussione uno degli interlocutori dice: ma Iddu qua è? Quindi questo Iddu, questo lui, dovevamo capire a chi si riferissero. Certo, però era lui per antonomasia. Abbiamo considerato anche l'ipotesi che potesse essere a Corleone e in effetti a Corleone è stata. Altra conferma, siamo alle porte del famoso 11 aprile del 2006, è un'intercettazione tra Mariangela Gariffo, figlia appunto di questo Carmelo Gariffo, quindi diciamo un nipote di Provenzano, che parla col marito, che è Lobue, che era uno di quelli dei portatori di pacchi, che alla fine la catena dei pizzini, no, diventa invece la catena dei pacchi man mano ci avvicinavamo al covo, e si lamentava per l'assenza del marito, che era sempre fuori casa, e lui dice: io faccio questo perché ho preso degli impegni con delle persone importanti e non ti faccio fare brutta figura perché non mi tiro indietro. E lì abbiamo avuto conferma che i pacchi che portava lo bue erano, diciamo, probabilmente destinati a Provenzano. Da lì stop con le intercettazioni, perché man mano ci si avvicina meno abbiamo utilizzato strumentazione tecnica che potesse in qualche modo compromettere per tutta una serie di ragioni le indagini. Certo. E lì c'è stato solo un servizio di osservazione, poi finalmente vediamo uscire una mano da dietro una porta che ritira una ciotola con la ricotta. Perché il nemico in questo genere di inchieste può essere dappertutto, palazzo compreso. Quindi a questo punto la quotidianità di un magistrato come cambia? Cambia che impari a non fidarti di nessuno, impari a non parlare. Per esempio con Michele Prestipino non parlavamo mai al telefono, ma ci dicevamo: vieni, raggiungimi, ci vediamo. Oppure quando non era possibile fare altrimenti parlavamo a mezzi termini, insomma, in modo da evitare che qualche eventuale interlocutore potesse ascoltare. Cioè eravamo diventati maniacali in quel momento, eravamo veramente silenziosissimi. Latitanti, uomini che scappano dalla legge e dai loro reati, uomini in fuga, come per primo lo fu nella notte dei tempi Oreste. E a questo punto è l'ora quindi delle nostre mitiche storiacce e di Giorgio Giaranò, professore dell'Università di Trento, autore di una serie di libri, da Olympos ad Eroi, sul mito classico. Mitiche storiacce. Il grande fuggiasco del mito greco è Oreste. Il poeta tragico Eschilo ne ha raccontato la storia nel suo capolavoro, intitolato appunto Orestea. Oreste uccide la madre, Clitennestra, che si era resa colpevole dell'omicidio del padre, Agamennone. Contro il matricida, sorgendo dalle tenebre dell'aldilà, si scatenano le Erinni, le divinità infere della vendetta. Oreste riesce a sfuggire alle Erinni grazie a un complice formidabile, è il dio Apollo in persona, che lo nasconde alle vendicatrici infernali e lo manda ad Atene perché sia giudicato da un tribunale creato per l'occasione, il primo tribunale nella storia dell'umanità. Apollo stesso si assume il ruolo di avvocato difensore. Oreste viene assolto. La logica della vendetta di sangue cede il passo a quella del diritto. Ma non tutto quadra in questo racconto. Oreste è un assassino e per farlo assolvere Apollo deve dimostrare che uccidere la madre non è un reato poi così grave. Lo fa con argomenti paradossali. Il figlio dice: non è consanguigno della madre, che è solo il contenitore del seme del padre. Si può assolvere un matricida con questi argomenti? Forse quello che legava davvero Oreste, il latitante della mitologia, ad Apollo erano proprio la violenza e l'assassinio. Apollo era il dio che scuoiava con il coltello i suoi rivali, come il povero Marsia che aveva osato sfidarlo in una gara musicale, il dio che seminava la morte con le sue frecce infallibili. Altro che trionfo del diritto, forse è solo una storiaccia di complicità tra criminali mitologici. Grazie dunque a Giorgio Giaranò e alle mitiche storiacce. Siamo alla segnalazione. La segnalazione della settimana ci porta dall'altra parte dello stretto, a Reggio Calabria. È Massimo a scriverci a penna per portare alla nostra attenzione il canto in onore dell''ndrangheta che ha sentito su una radio locale. Il canto si chiama O Mazzuni e celebra gli uomini d'onuri, spiega Massimo, che ci riferisce come su quelle stesse frequenze in giorni precisi abbia più volte sentito mandare i saluti pure a quanti non possono parlare. Scrive, vale a dire, i detenuti. Una segnalazione su cui riflettere, perché sappiamo come il consenso delle mafie passi spesso anche per le note di alcune canzoni. E se anche voi avete qualcosa da segnalarci, fatelo con una mail, oppure mi trovate sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece sono all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto.